No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla Zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... sì, pronto? Cazzoni? Sono culone! La Zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Caro Parenzo, il mistero della salma di Priebke. Beh, mistero. I servizi segreti smentiscono. Lo pseudo avvocato Giachini ci marcia. Sulla bara, no? Beh, certo. Marcia sulla bara? No, non marcia sulla bara. Ma dov'è sta bara? È sempre detto all'aeroporto, lì. Dov'è sta bara? Non si sa, forse è stata trafugata, forse hanno è stata... Ma perso la bara del signor Priebke! Dire che non mi... Posso dire che non mi dispiace? Però la frase di oggi, forse una delle migliori degli ultimi due mesi, c'è cioè tutto questo casino, dov'è la salma di Priebke, gli scontri, il fascismo, l'antifascismo, eccetera, è dello stesso Giachini. Non so se sia una frase di ieri, ma leggo dal Corriere della Sera, cari amici della Zanzara. Perché poi i personaggi vanno anche conosciuti, no? Signor Paolo Giachini, estremista di destra, avvocato di Priebke, amico di famiglia, sostiene: non nutro alcuna fascinazione per il male, semmai per le escort, ma di alto livello. Sono il mio unico lusso nella vita e voglio continuare a permettermelo, anche se ormai sono vecchio, 63 anni, sebbene dicano che non li dimostro. Caro amico mio, questo è il caso di dire. No, ma questo avvocato Giachini mi sta sempre più simpatico. Che anche il nazismo va a puttane, per fortuna. No, ma chiedo scusa, se alle 18:36 oggi mi ero riproposto di non dire neanche una parolaccia, ma dopo questa notizia che ho letto anch'io stamattina, subito ho detto: il nazismo, per fortuna, va a puttane. Definitivamente, con questa dichiarazione dell'avvocato Giachini. Sono il mio unico lusso. Questo abita da solo con la madre, da quello che risulta. Sono il mio unico lusso nella vita e voglio continuare a permettermelo. L'escort poi puntualizza: sì, ma di alto livello. Cioè, quanto le paga? Ma vedi che anche le persone più così, no? Hanno un aspetto umano. Beh, certo. È l'aspetto più bello di questo avvocato è questo. Ma tu te l'immagini l'avvocato Giachini con quell'aspetto torvo, che a un certo punto esce: mamma, vado a puttane. La cui mattina era dedicata al signor Priebke, il pomeriggio alla mamma e la sera alle puttane. Dai, avvocato. Vabbè, poi ci sono le parole del mostro, la parola di Priebke che dice: le esecuzioni sono non state... Non mandarle. No, però, come non le mando? Oggi non dici non ti sento, eh? No, ti sento molto bene, forse troppo. No, aspetta fa un attimo. Fa ribrezzo sentire quella voce. Senti, però... Ribrezzo. Ho capito, ma tutti l'abbiamo ascoltata ed è ridicolo. Non c'è bisogno di sentire la voce. Lui dice: le esecuzioni sono state terribili, però è stato Hitler che ordinava, altrimenti ci avrebbero ammazzato. Su questo, però, devo dire, potrebbe anche avere ragione. Era un gerarca. Ma d'accordo, ma potrebbe avere ragione. Era il capitano dell'SS, certo. Se non è che uno poteva un sistema. Ma non è che un uno militare. Poteva rifiutarsi di ammazzare la gente. Ma che no? Se Hitler ti dice ammazza quello, dice: scusa, no, veramente non posso. Dai, su, alla fine lo fai. Sarebbe no? Come dire, se tu mi dici attraversa la strada con il rosso e io lo faccio, cioè, mi ha detto Cruciani, e quindi attraverso la strada con il rosso, ma sono un coglione, no? Ma, sono un criminale. Eravamo durante il nazismo, non è che uno si rifiutava un ordine. Scusi, però io c'era non voglio... chi si rifiutava. Lui era cosciente. Vabbè. Era volontario. Ma vabbè, tu ti ricordi? Fammi sentire. Questo signore, che adesso non sa dov'è il cadavere, per fortuna, chi se ne frega, sarà lì all'aeroporto qualcuno, cioè dove dice: oh, che cazzo è questo? È Priebke. Vabbè, è lì che gira sul nastro dell'aeroporto. Lo dice: cos'è? Aereo arrivato da New York. Dice: le valigie, nastro 4. Uno prende e dice: che cazzo è sta roba? È il signor Priebke che gira su questo nastro. Vabbè, il mostro, dai. No. Sì. Mi dissocio. Però non era possibile rifiutarsi. Naturalmente non era possibile. Abbiamo Schütz, prima di cominciare la rappresaglia, ha detto a tutti che questo è un ordine di Hitler e dobbiamo decidere chi chi non vuol fare, è meglio che mettersi con le altre vittime, sarà anche lui. Vabbè, insomma, se non si sente nulla, diciamo la verità, non si sente. Era un volontario lui. Sì, vabbè, d'accordo, ma che vuol dire? Erano altri tempi, dai, su, io non lo sto assolvendo. Sto dicendo che è credibile quando uno dice che davanti a un ordine di Hitler tramandato dalla Germania. Sì, ma anche uno che ha 100 anni e ha vissuto fin troppo. Non si è pentito, non si è pentito. No, almeno dica, io non riesco e non l'avrei capito comunque, ma almeno avesse detto: ho fatto tante cose brutte, sono stato un maiale, ho tolto la vita, sono stato un assassino. Abbiamo fatto quello che ha chiesto. No, poi ha detto un'altra cosa. Poi ha detto un'altra cosa: che in realtà i partigiani sapevano della rappresaglia e hanno fatto apposta. Ma bisogna adesso anche sentire quello che ha da dire questo. Beh, questo, sì, certo. Questo gerarca. Questo. Ma la cosa più bella della giornata, ma sentiamo questo Lefebriano, ma il signor Petrucci, che abbiamo intervistato anche noi, che dice: il defunto si è pentito dei suoi peccati. Però da oggi possiamo chiamarlo De Cuius, per dare anche un non po' risulta, di De Cuius, caro Lefebriano, caro prete Lefebriano, non risulta si sia pentito, No. In quanto sacerdote cattolico non posso rifiutare il funerale religioso a una famiglia che me lo chiede, nella misura in cui il defunto muoia appunto pentito dei suoi peccati, che non sia non si è pentito caro prete Lefebriano, non si è pentito per niente, assolutamente. Altra cosa meravigliosa della giornata, la metafora del ministro Cancellieri, una metafora fantastica che ha capito solo lei, sulla casalinga, la carne e le uova. Cioè, è veramente incomprensibile. Comunque, il ministro della giustizia, in romanesco, fantastico, dice: beh, il Parlamento. Sentite. Non mi può venire a chiedere? È come se lei dice ad una madre di famiglia: devo andare a pranzo, se ti compro un chilo di carne ti fa comodo. Ma bello mio, certo che mi fa comodo. Poi lei mi dice che non c'hai soldi per la carne. E non si preoccupi, faremo con le uova. Cioè, vuole dire, se il Parlamento. Adesso ve lo spiego, perché poi l'ha spiegato anche lei. Se il Parlamento ci dà l'indulto e l'amnistia, che non dipende dal governo, allora va bene. Altrimenti faremo lo stesso, risolveremo i problemi dei carcerati lo stesso con le uova. Cioè, le uova sono meno pregiate della carne, ma le mangiamo lo stesso e risolviamo con quello che ci abbiamo. Vabbè. Era il ministro della giustizia, Non è che ha detto delle corbellerie. No, però c'è gente a questa trasmissione che dice ben di peggio. No, per carità. Vabbè, cioè, la signora Michelle Bonef andrà da Santoro stasera, cioè ha registrato un'intervista. Andavo a letto con Berlusconi per contratto. Quindi lui mi ha detto che mi avrebbe aiutato. A quel punto sono iniziate le sue avance, fino a che a gennaio, fine gennaio 2012, grande festa, e alla fine della festa siamo stati insieme. E lei come l'ha vissuto? Che sperava più dottrina. Spegni la luce, passa dalla TV. Va bene, 800 24 00 24. Michelle Bonef, che poi è stata aiutata a prendere un premio a Venezia, eccetera. Come direbbe Santoro, vabbè, però insomma anche Bribi che ha parlato di Berlusconi, ecco. No, veramente non ha parlato del testamento di Bribi, che noi abbiamo una cosa importante su Berlusconi. Non ha parlato di Berlusconi. Bribi che ha detto che Berlusconi, la trattativa è stata mafia, è stata fatta. Ha detto Bribi. Comunque, vabbè, intanto poi vediamo più tardi, no? È con noi il direttore di Tempi, Gigi Amicone. Buonasera. Buonasera. Un altro cattolico, per fortuna, ma per bene. Ma persona per bene. Molto vicina a Silvio Berlusconi, così dicono. Nonostante sia di CL. Beh, no, che ci si, perché nonostante? No, scusa. Perché il mondo di CL ormai si è spostato molto. Ma è vero che il mondo di CL si è spostato un po', ha preso signor le distanze Mario, da Berlusconi? Signor Mauro, se lo dice David, qualcosa di vero ci deve essere, no? Ma, allora, David è informato. Ma no, è informato. No, a parte che scherzi. L'hanno scritto anche che il mondo di CL si è spaccato. Mario Mauro, Lupi e altri amici di Gigi Amicone hanno abbandonato il CAV. Non è che lo dico io, ma insomma... Mario Mauro ha fatto scelta civica, anche se poi mi dicono, adesso leggendo le cronache, sì, è vero che ha incontrato di nuovo Berlusconi. Che vuol dire secondo lei? Torna tutto vuol dire che probabilmente ha fatto una scelta politica, però si ricorda chi viene da dei vecchi amici, storia, insomma. Ma se lo ricorda quando accompagnava sempre Berlusconi a Strasburgo, a Bruxelles, eccetera, poi zac, una coltellata, o no? Beh, coltellata, poi dai. Beh, un po' una coltellata, sì, dai, su. Nobilitiamola con una svolta politica, un'evoluzione politica. Però scusi, amico, ne questi qua che per una vita sono stati con Berlusconi, mi dica la verità, e che a un certo punto si fanno venire un po' di pruriti, come li giudica lei? Me lo dica chiaramente. No, io li giudico, fanno la politica e quindi è legittimo. Però... fare delle scelte. Io che non faccio politica ne faccio altre, perché cerco di considerare tutti i fattori in gioco. Mi pare che Berlusconi in 20 anni ha messo in piedi comunque una storia politica che non si può liquidare così, come un caso personale. Dai. E invece questi qua? Questi qua l'hanno abbandonato un po', su, dai, lo dica, anche Comunione e Liberazione, parte di Comunione e Liberazione ha abbandonato Berlusconi. È un dato, su. No, non mettiamo in mezzo Comunione e Liberazione, perché sennò facciamo pasticci, perché ma dobbiamo fare storie personali, perché Mario Mauro è uno che fa politica invece di fare il medico, e quindi saranno fatti suoi, voglio dire, si assume le responsabilità delle sue scelte, no? Quindi, scusate, ma lei si definisce ancora un giacobino berlusconista? Berlusconiano? Ma sì. Diciamo. Cioè, con lui fino al patibolo? No, ma questa sarebbe una storia da gregari faziosi. Riconosco che c'è una vitalità politica e anche antropologica, devo dire. Addirittura? Se hanno bisogno ancora di tirare fuori vicende che non hanno nessuna... Sì? La storia della Bonef, che stasera, no? È uno scandalo questo, è grufolare nei fatti, no? Ma è lei che l'ha detto, la Bonef ha detto che la Pascale è lesbica e quelli la intervistano. Certo, ma se fossi al posto loro non intervisterei, perché legare il proprio destino giornalistico al fatto, diciamo, a una forma di bassezza che ha qualche spiegazione. Cioè non è una notizia. Che spiegazione ha secondo lei, scusi? Vabbè, rumore. Vabbè, ma quelli fanno mestiere loro, non è che... Sì, le notizie fanno rumore. Scusi un attimo, a proposito di Berlusconi, ma come giudica invece Don Mazzi, che ha parlato di cessi, di pulire cessi e di raccogliere pomodori? È indegno di indossare una tonaca, secondo lei, uno che parla così? Ma no, non è questo, è che Don Mazzi ha una sensibilità... un po' troppo spiccata forse alla notizia che diventa fonte anche di, come dire, di risorse. Cioè fa più il polemista che il prete? Forse sì, no? Forse. Vabbè, tonaca di lotta, sì, traffico, di lotta. Torniamo subito, traffico. La zanzara. E ancora in casa, Emo. Zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazà, è la zanzara. Silenzio la vecchia! Zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazà. Allora, c'è il signor Odifreddi, il quale oggi ha messo il carico da 90, dopo aver detto... Matematico incontinente, anziché impertinente, incontinente per le cazzate che dice, un po' incontinente. Dopo aver detto che l'olocausto non ci sono le prove perché c'è la propaganda americana, non ci sono prove certe dell'olocausto, aspetta, ha aggiunto gli americani con gli indiani come Hitler con gli ebrei. Ma scusa, ma invece... Invece di quelli ci sono prove certe, professor Odifreddi, perché lui c'era al tempo dei cosi, c'era al tempo delle uccisioni degli indiani da parte del. È impazzito il matematico. Chiamiamolo un attimo per dirglielo. Mi piace e c'è un rumore che non mi dà pace. Sembra il motore di un aeroplano. La signora Casellati, deputato del PDL o senatore, non lo so, va via dalla trasmissione di Paragone. Sentite. Semplicemente Silvio Berlusconi non è più adatto a sedere nelle nostre istituzioni. Però come dicevi, certo. Missione di questo tipo vado via. Però... Te lo dico subito. Perché? Vado via. Perché? Perché? No. Qual è il problema? Lo dico immediatamente. Qual è il problema? Perché? Allora, vado via perché vedo soltanto che... Allora, uno può pensarla come vuole, ci mancherebbe altro, però occorre raccontare la verità. A me poi fanno impazzire questi grillini, no? I grillini che hanno lasciato Grillo, che hanno formato un gruppo che si chiama Gap, peraltro non è un nome particolarmente felice. Partigiani? Partigiani no, ma è un nome felice, perché uno non è che può ricordare i tempi dei partigiani, eccetera. Vabbè. Sir Feltrinelli. No, cioè... ma lascia perdere Feltrinelli. Beh, sì, ma Gap, senti, cioè... adesso si sentono estranei a quello che dice Grillo, a quello che ha pensato Grillo. Il grillismo è una deriva post-berlusconiana. Senti questo Zaccagnini. Rinsaviti. Ma che rinsaviti? Perché prima dove erano? Dove erano prima? Senti. Ci opponiamo al berlusconismo, ai danni che ha inflitto nella nostra società. Vogliamo rimediare alle sue degenerazioni culturali e alle derive post-berlusconiane come il grillismo, che fomenta pericolosamente la pancia e gli... Le derive post-berlusconiane del grillismo, dov'eri Zaccagnini? Dov'eri prima? Dov'eri? La voce amareggiata, la ma voce che triste. Voce amareggiata, va. Sulla mia pancia una bollicina, un'altra ancora sul mio ginocchio. Amicone, lei che è così vicino a Berlusconi, è vero che Alfano ha chiesto la testa di Sallusti? Amicone? Beh, ma che ne so, questo ma come veramente. No? Io gliel'ho sconsigliato, personalmente gli ho detto che si può pensare quello che si vuole di Sallusti, ma è un fiorfiore di professionista, come si vede la sua carriera. Però? È partito dal Corriere della Sera. Ma lei ha detto a Berlusconi a non cacciare Sallusti? Io non lo caccerei, però. Però butta male, secondo lei? Ma butta male lì c'è gente che probabilmente lo vuole cacciare. Ma chi lo vuole cacciare secondo lei? Io non faccio parte del partito, nel senso. No, ho capito, però lei sa, avrà sentito qualcosa sicuro. Un po' di cose le sa, su, amico. Cioè, chi è che lo vuole cacciare? È vero o no che Alfano un giorno sì e l'altro pure chiede la testa di Sallusti? Giuro che non lo so, però posso immedesimarmi dalle parti dei cosiddetti ministeriali che non avranno gradito probabilmente per nulla la linea del giornale e nei giorni in cui si decideva fiducia o sfiducia, no? Vabbè, quindi, ma questo lo sappiamo. È vero o no che Alfano chiede ripetutamente a Berlusconi la testa di Sallusti? La risposta è non lo so. Non lo sa. Ma lei che farebbe della salma di Priebke? La seppellirei, ovviamente. In Italia? In Italia, in Germania. In ma no, ma cioè in Italia o in Germania? Amicone, uno si deve decidere. Cioè, siccome... Allora, è stato condannato all'ergastolo. Sì. È morto. Su questo c'eravamo arrivati. Sul territorio italiano si può... si deve seppellirlo come qualsiasi defunto. Come sul territorio italiano. La Chiesa ha sbagliato in questo? La Chiesa ha sbagliato, ha opposto? La Chiesa, non lo so, certi uomini di Chiesa bagnano a dire che non si può seppellire. Allora, come ha detto il prefetto... Ha detto, sì, ma lasciamo perdere, la Chiesa ha sbagliato per esempio a vietare i funerali o qualcuno si è espresso anche contro la sepoltura. Ha sbagliato o no il vicariato di Roma? Questa è la domanda. Lì c'è un diritto canonico che vale, per cui se non c'è pentimento, se non c'è se non c'è rispetto a crimini gravi, è lì il diritto canonico può vietare la sepoltura. Ma questo, lo sappiamo, però il risultato questo è lo che sappiamo. I Lefebvriani gli hanno fatto il funerale. Il diritto canonico a non sbaglia, perché è un diritto che corrisponde a una certa visione del mondo e quindi c'è un diritto, c'è un principio, no? Come c'è una legge italiana e internazionale. O Di Freddi come lo giudica che ha detto quelle cose sull'Olocausto? Beh, Di Freddi gli bastava leggere, non so, Prodi e Anna Frank. Vabbè, ma questo lo sappiamo, ma come lo giudico Di Freddi, no, che è un antipapista per eccellenza, che ha detto queste cose, un mezzo matto, una persona rivela l'ignoranza fondamentale di uno che si dice logico-matematico e che può appunto ragionare astrattamente di tutto e non sapere nulla, e quindi è una logica che... assolutamente incredibile quello che sostiene, per cui va bene, amicone, la ringrazio, buona serata, grazie. Le clamorose affermazioni dell'avvocato Taormina ieri alla Zanzara, che dice: io nel mio studio di avvocato un frocio non ce la voglio. Intanto io, per esempio, nel mio studio faccio una cernita adeguata in modo tale che questo non accada. Cioè, non ho capito, lei se uno è omosessuale non assume nel suo studio? Sicuramente no, sicuramente no. Ma professore, ma questa no. Ma è discriminazione questa roba qua? No, sarà discriminazione, a me non me ne frega niente. A me non me ne frega niente. dispiace, mi turberebbe l'ambiente, sarebbe una situazione veramente di grande difficoltà. Ma sì, ma guardi, ma no, ma proprio hanno un'altra mentalità, altri stili, e parlano diversamente, si vestono diversamente, si muovono diversamente, è una cosa assolutamente insopportabile, guarda. È il contro natura. Ci sentiamo dopo il giornale radio. La Zanzara. Silenzio, la vecchia. Sei ancora a casa, Emo? Benvenuta nel mio spazio sotto il salice, salice. Non stare. Cucù, scusate se vi ho disturbati. Allora, tanto per essere chiari e per ricordare quello che è accaduto ieri qui alla Zanzara, l'avvocato professore Carlo Taormina, ma guarda, nostro carissimo amico, avvocato professore Carlo Taormina, ha detto in maniera chiara che lui i froci, gli omosessuali, i gay non li vuole nel suo studio. Lui fa un colloquio alle antenne, dice, lo capisco subito. Lo capisco subito. Se uno è froce oppure no, e insomma, non ce li vuole perché danno fastidio, disturbano, creano turbative all'ambiente. E intanto io, per esempio, nel mio studio faccio una cernita adeguata in modo tale che questo non accada. Cioè, non ho capito, lei, se uno è omosessuale, non lo assume nel suo studio? Sicuramente no. Sicuramente ma no. Professore, ma questa ma è discriminazione questa roba qua? No, sarà discriminazione, a me non me ne frega niente. Como es malada esta sociedad. Se fa un colloquio chiede, ma lei è frocio? No, lo capisco da solo, non c'è bisogno. Ma come va a capirlo? C'ho le antenne, guardi, per questa cosa c'ho le antenne molto lunghe e molto sensibili. Mi piace, mi turberebbe l'ambiente, sarebbe una situazione veramente di grande difficoltà. Ma sì, ma guardi, ma no, ma proprio hanno un'altra mentalità, altri stili, e parlano diversamente, si vestono diversamente, si muovono diversamente, è una cosa assolutamente insopportabile, guarda. È il contro natura. A gustare il torsiglion della deserco. Perché volevo prendere? Faccia l'avvocato, se è così bravo e così capace di poter fare l'avvocato, si apre un bello studio per conto suo e si fa la professione come meglio crede. Contro l'ombra non mi devono rompere i coglioni a me con i gay pride e tutte queste cose qua che fanno soltanto vergogna all'umanità. Beh, cari avvocati, cari ordini degli avvocati, non avete nulla da dire quando un vostro affiliato, un avvocato di prestigio che difende anche personaggi importanti del mondo della criminalità e non solo, personaggi discussi, direi, sì, molto discussi, sostiene in realtà che lui i froci nel suo studio non ce li vuole. Titoli del TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Sulla manovra il governo apre a modifiche, il sottosegretario D'Alia, purché a saldi invariati, con l'intervento sul cuneo fiscale in busta paga solo 14 euro in più. Tensione nel PDL sulla legge di stabilità, Berlusconi convoca i ministri a Palazzo Grazioli, salta la nomina all'antimafia ed è scontro col PD. L'Italia si sta muovendo nella giusta direzione con le riforme, dice Obama nell'incontro alla Casa Bianca con Enrico Letta, Roma partner eccezionale. Bruxelles, l'Italia deve modificare la legge sulle pensioni, ci sono disparità nel trattamento uomo-donna e si rischia un nuovo caso Esodati. Processo Stato-mafia, Napolitano sarà sentito come testimone sulla lettera dell'ex consigliere D'Ambrosio. Cancellieri, richiesta inusuale, il Colle valuteremo con rispetto. Diffuso un video di Erik Priebke, sulle fosse ardeatine dice terribili ma era impossibile dire di no, i comunisti volevano la rappresaglia, giallo sulla salma. E dopo l'accordo in extremis al congresso non c'è nessun vincitore, dice Barack Obama. Gli americani sono stufi di Washington, aggiunge, per loro si deve fare di più. perché viene. Ma tu. Se ti sei battuto per essere nelle liste, per essere un nominato. Non mi sono mai battuto, sì, io sono stato. Non volevi stare nelle liste, non ti, no, sa, non ti hanno messo nelle liste. Non mi sono mai battuto. Ma dai, Vittorio, dillo però. Ma tu dici delle cose diffamatorie. Ma lo io sai, non sono mai... no, lo sai, sono... volevi stare nelle liste con Berlusconi e non ti ci hanno messo. Ma non mi sono mai. Ma tazza di merda! Oh! No, non ci sono mai voluto essere, non devi dirlo! Io! Allora fai una cosa, documentalo, ti denuncio. Ma lo so, dai. Ma ti piccio in testa, ma faccia no, di merda. No. Ma guarda se devo sentire un cretino. Ho fatto esattamente il contrario. Che poi lui tiene fuori che vuole essere candidato è un'offesa, per cui io da voi non verrò più. Ma no, dai, l'avete rotto il cazzo, no, no, non sono qua a farvi offendere da due schiantati. Ma che è una, se fosse vero, perché è un'offesa? Tu volevi essere candidato, tu volevi essere candidato, tu da N, io ho visto, tu me l'ha detto Fini, Fini mi ha detto quel cucciato, veniva a leccarmi il culo per essere candidato, te lo dico io, tu e anche lui, lui dalla Lega, da Bossi, ti ho visto, voi due, leccaculi. Leccaculi, vi ho visti io. Silenzio la vecchia. È bello quando dice da Bossi. Solo perché ho presentato il mio libro a Salerno. Vabbè, non c'è bisogno che spieghi ogni volta. Su, abbiamo spiegato 40 volte. Che spieghi? Ma chi se ne frega? Ma figuriamoci se qualcuno pensa che tu ti sia voluto candidare con la Lega. Su. Ma quale reputazione? Ormai è andato tutto a puttane. Aspetta un attimo. Ma parla per te, parla. Oggi sul giornale scrive Sgarbi: non volevo far chiudere Cruciani e Parenzo, e se dessero a me la conduzione, cioè, alla fine vuole condurre lui, questa è la realtà. A Sgarbi fa il finto pentimento sul giornale di oggi, amico mio. Prima o poi diremo qualcosa sulla pensioncina da baby, no, di Sgarbi, diremo, no, qualcosina meglio sulla, non sì. Dirò qualcosa sulla baby pensione, no. Sulla baby pensione poi esplode perché tempo al tempo. Riascoltare quello che hai mandato, si capisce evidentemente che tu lo pizzicavi in continuazione, no, capito? Ma diamo tempo, e c'è al tempo è esploso, hai capito che all'inizio era tutto tranquillo, sì è vero. Diceva, allora confessa, tu gli dicevi allora confessa, a questo punto è impazzito. Diamo tempo al tempo. Marco da Milano. Anzi, silenzio, no, chi la c'è? Vecchia. Sì, silenzio la vecchia, sì. Prima chi c'è? Prima è Pino da Forlì. Sì. Pronto? Dica. Ciao Cruciani. Volevo solamente fare due considerazioni sul discorso della sepoltura di Fricke, fermo restando che ognuno ha le sue visioni delle cose, le sue visioni della storia, benissimo. Fricke era un ufficiale di un esercito che in quel momento era in guerra. Per cui guerra, purtroppo, è sinonimo di odio. Sì. Odio significa leggi, questo e quest'altro. E non poteva non eseguire degli ordini. Sì, ma su quello posso anche essere d'accordo. Il punto fondamentale è un altro. Il punto fondamentale è un altro. Che purtroppo, in quella guerra lì, se ne faccia una ragione anche lei, c'erano dei buoni e dei cattivi, non c'è niente da fare, alla fine è così, c'erano delle persone che per carità ammazzavano anche loro, perché in guerra si ammazza, ma alla fine c'era un mondo che era quello occidentale più o meno, con tutte le contraddizioni, che voleva la democrazia, e quelli che invece erano degli stati dittatoriali, ed è stato meglio che abbiano vinto quegli altri, punto e basta, per cui lui è un vinto. Ti voglio chiedere una cosa, lui è un vinto, lui oggi è il boia, lui oggi, benissimo, no, oggi, perfetto, anche all'epoca era boia, anche all'epoca, quando volete, benissimo, adesso però vorrei chiedere alla coscienza delle persone se e quando morirà gente come Totò Riina, che ha ammassato per soldi gente innocente. Ma certo, avranno una tomba, verranno tumulati. Non faranno un cazzo. Sai cosa faranno? È morto, peccato, la famiglia ha organizzato i funerali. Vabbè, che non saranno di Stato. Guardi che... Sì, però quello che ho capito, dire Pino, che guardi che io sono d'accordo con lei. Siamo sempre quelli che fanno le guerre, poi se le vinco sei tu il deficiente. No, il problema non è questo. Guardi, secondo me lo Stato italiano ha rivoluto Pripke dall'Argentina. A quel punto deve gestire, e ha gestito malissimo questa fase, prendere questo corpo, seppellirlo in un posto magari non particolarmente conosciuto, gestire in un altro modo questa faccenda. Invece ha permesso questa gazzarra. Stefania da Roma, non lo so, è ancora lì all'aeroporto. Ma dove? A Pratica di Mare? Boh, non si sa, è sparito, mistero. Stefania da Roma. Buonasera a voi. Dica. Senta, io volevo puntualizzare solo una cosa. Oggi ho visto un pezzetto della vita in diretta. E chi c'era? Sì. la signora Punturieri, vale a dire Riva di Meana. Allora? Ma quanto avrà preso dalla RAI, visto che quando è andata a Rete 4 ha detto che gli hanno dato 1000 euro come gettone di presenza? Beh, avrà preso un altro gettone pure oggi, ma qual è il problema? Se qualcuno la invita, noi non gli diamo una lira, noi non gli diamo un euro. Sì, no, dico, ma lei piange miseria. Chi? Che in due giorni, due o tre giorni ha già preso 2000 euro. Mia figlia, per guadagnare 2000 euro, deve lavorare mesi. Ho capito, mesi. Sua figlia è sua figlia, quella è Marina Riba di Meana, se ne faccio una ragione. Poverina. Funziona così, signora, funziona così. Soldi. Come diceva il Marchese del Grillo, io so io e voi non siete un cazzo. Cioè, lo so, ecco, appunto. Ma la realtà è questa, è Rosario da Bari. Lo so, io lo dico in maniera brutale, certo, però è così. La signora Stefania, non è che se lei va la vita in diretta o non so dove, a quinta magari colonna. Magari alla signora gli turba, perché la figlia magari lavora al CNR, una fisica nucleare. E non prende un euro. E invece la quella va Riba di Meana, sì, Riba prende 1000 euro per andare alla vita in diretta a dire due cazzate. Lo so, è così, Rosario da Bari. Però mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. È così, Rosario, eccola. Da Bari, ma è inevitabile. Pronto? Sì, dica. Buonasera, dottor Cruciani. Salve, volevo intervenire a proposito del dottor Taormina. Volevo sapere, professore, se questa cosa, questa sua convinzione e affermazione potrà avere dei riscontri un po' negativi. In che senso? Scusa. Come l'ha avuto il povero Barilla. Non lo so, non ha, diciamo, il professor Carlo Taormina è un avvocato, quello era il capo di un'azienda, sono due cose un po' diverse. Comunque sì, certo. Il signor Barilla aveva, diciamo, i suoi diritti anche per situazioni commerciali, ma il signor Taormina innanzitutto se ha le antenne per capire se quello lo sanno solo i gay, gli omosessuali, perché e poi io non ho capito nulla, scusi. Taormina ha detto che nel suo studio non vuole omosessuali, vediamo se l'ordine degli avvocati prenderà qualche provvedimento. Ma difenderebbe un omosessuale, questo è da capire. Non lo so, adesso non andiamo, penso di sì, perché ha detto che difenderebbe pure i pedofili, per cui, ma non, che non c'entra niente con gli omosessuali, per carità. Borsa, la zanzara. Sono come zanzare, tazza di merda. Queste ombre sulla strada e cadono le ceneri della città. Non mi può venire a chiedere, è come se lei dice ad una madre di famiglia: devo andare a pranzo, se ti compro un chilo di carne ti fa comodo? Ma bello mio, certo che mi fa comodo. Poi lei mi dice che non c'hai soldi per la carne, e non si preoccupi, faremo con le uova. Briciole dai balconi e lasciano cacare i cani. La meravigliosa e inspiegabile metafora della Cancellieri sull'amnistia e l'indulto. Alberto da Verona, buonasera. Cruciani, complimenti per la trasmissione, anche a Parenzo. Sì. Un intervento in tema, in merito al discorso del collega Taormina. Sono un giovane avvocato di Verona. Sì. Premetto che ho anch'io amici omosessuali e non c'è nessun problema, amici gay, quindi allora? Non è un intervento di questo tipo. Allora, il discorso è questo, l'esagerazione, Cruciani, da parte di voi giornalisti, a volte genera poi delle Ma in che senso l'esagerazione, scusi? Ah, le spiego subito. Il fatto di esagerare certi interventi e certe dichiarazioni... No, ma noi non abbiamo esagerato nulla. Qui l'ha sentito lei cosa ha detto il professore? Il professore ha detto, io nel mio studio non voglio i proci. Questo ha detto, nel mio studio d'avvocato non voglio i proci, gli omosessuali. Io ripeto, ho la dispensa papale, ho la dispensa papale. Parenzo un attimo, la vede l'esagerazione? Non ha detto non voglio i proci. Ma come no? Voglio. Ah no. No, più chiaro di questo non si può. Ha detto, io quando faccio un colloquio, siccome ho le antenne, li riconosco, non li prendo perché sono omosessuali, turbano l'ambiente, se restano strani, così ha detto. Ma l'avvocato è una libera professione, avrà il diritto il collega di scegliersi il collega e il collaboratore. Questo è da vedere. Guardi, per fortuna Taormina non è uno che il giorno dopo dice no, non ho detto così, anzi uno che rivendica e rilancia, quindi stia pur certo che quello che ha detto è quello che ha sentito. Sì, ma quando seleziono anch'io i miei collaboratori, avrò la possibilità di scegliere se selezionare dei collaboratori uomini o donne, o di nazionalità o religione musulmana o meno, in base insomma, non lo so se lei può dire... Se il criterio è questo, se è una follia. Ma è un criterio organizzativo, io sono in studio con un commercialista di nazionalità... Ma sarà se uno è bravo o non è bravo, no? Scusi, ho capito, ma a me se può servire un collega di un... che corrisponde a una certa fattispecie o meno. Cioè, scusi Alberto, io voglio capire, per esempio, se lei fa un colloquio e vede che questa persona magari le appare, se questa persona le appare un omosessuale di quelli proprio patentati, lei che fa? Lo prende o non lo prende? Ma allora dipende, a me non creerebbe nessun problema. E allora basta, allora, questo è. Ma a parte questo, voi state criticando, è questo che... Ma io non sto criticando nessuno perché non me ne frega niente, io sto dicendo che... No, dai, avete girato la notizia in modo esagerato, questo genera delle distorsioni. Ma quale distorsioni? Le cose sono molto chiare, Alberto, mi dispiace ma in questo caso sono chiarissime. Lores da Vicenza, buonasera, Lores. Lores? Lores dal Caris. Pronto? Sì, pronto? Dica, signora Lores. Ah, allora, signor, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Complimenti per la trasmissione. Vabbè, basta. Volevo dire a Coglione di Parenzo, no, ecco, che deve smetterla, deve smetterla, sì, deve molto smetterla lieto, di nominare critiche, molto perché lieto, lui non eccola, ha fatto... Eccola nazistella. Stai zitto, coglione! Ecco la fascistella che chiama 1938. Ecco la fascistella. Stai che calmo, chiama. Lascia parlare, Parenzo, lascia parlare. Ecco la fascistella, ecco la fascistella. Stupido, che sei ecco. Così vuoto di cervello che fai schifo. Ecco la Fräulein. Potrebbe usarti a lui come la ecco zucca. Ecco la Fräulein, eccola che arriva. Vabbè, signore, che cosa ha da dire? Che cosa certa ha da... Che sei altro che un cretino. Ecco la Fräulein. Signora Lores, cosa ha da dire? La Fräulein isterica, ecco la Fräulein. Allora, isterica. A parte tutto, sì, sono isterica, perché quando ti sento mi fai venire proprio, guarda, l'isterismo. La Fräulein, intanto via di lei che non ci conosciamo, la Fräulein isterica. Comunque vai via, coglione, vai via che devo dire una cosa. Fräulein isterica. Scusi, signora Lores, però lei è aggressivissima, signora Lores. No, Fräulein, chiamala Fräulein. Ma che cazzo dici, Cruciani? Cosa fate voi che non ha preso una camomilla, ha preso la Fräulein. Ma che ha preso? Hai il Fräulein, come sta Fräulein? Perché non ti prendi, perché non dici ai tuoi amici in Israele di aprire le porte? Fräulein, Fräulein. Va a cagare, cretino. Ma chi è che dice dietro? No, stia calma. Hai sentito la Fräulein? Ma lei, scusi, ha dei problemi. Hai sentito la nazistella che chiama? La nazistella delle 19:40. Hai sentito? La nipotina di Priebke che chiama. Lei ha dei problemi, signora Lores, però. Abbia pazienza. Nipotina. Con chi è che vive mi lei? Mi sta ascoltando, Cruciani? Sì, sì. Con la camicia nera vive. Con dica, la camicia dica grigia. Dica quel coglione lì che ha di fianco, no? Sì. Perché i suoi amici di Israele non accolgono quelli che vengono dal sud Sahara. Ma lasci perdere adesso. Insomma, cosa c'entra? Sparano, glielo ecco chiede perché loro che hanno occupato un territorio faccetta e sparano nera. A tutti. Come si chiama la signora? E noi dovremmo Flores. Invece, noi Lores. Che siamo a casa nostra, dovremmo accettare Flores. Tutto il mondo? Vabbè, glielo allora, la signora Flores dall'Abissinia, ecco. No, la Lores. Aspetta, Lores. Spera che già Lores si avvicina. Quando saremo vicino a te, ecco la nazistella, signora. Facetta nera della Abissinia. Vedi la fascistella? La Fräulein? Arrestatela. Signora Lores, ma lei che fa fornisca durante il giorno? L'indirizzo dove sta durante il giorno, che cosa fa lei, signora Lores? Ma niente, cosa fa? Canta in revisione, canta. Che fa durante il giorno? Che lavoro fa lei? Cosa farà? Rievocherà la guerra da Bissinia? Sta zitto quel coglione lì, glielo dico. Ma non ha un cazzo da fare, è evidente che fa la guerra da Bissinia con i carri armati del Risico. Ma cosa dici, stronzo di merda? Io mi guadagno da vivere. Eccola la raffinata signora. Eccola la signora raffinata. Come si guadagna? La signora Lores raffinata, eccola qui. Come si guadagna da vivere? Stai zitto un attimo. Come si guadagna da vivere, signora Lores? Faccio la battona. No, vabbè, dai, su, sì, Lores, dai. Quello sarebbe nobile rispetto a quello che ha detto. Sarebbe auspicabile che fosse così. Sarebbe auspicabile che fa di mestiere, che fosse signora così. Lores, lei non che è così niente. Raffinata, cosa fa di mestiere, signora fa Lores? Niente. Faccio la battona. Ma dai, su, ma non è vero, dai, ma non ovvio, è vero. Ma speriamo che sia così. Non si sa... Come? Faccio il lavoro che fa la moglie di Parenzo. No, perché vabbè. Se va a letto lui è una bastona. Vabbè, d'accordo, allora si siamo arrivati dall'abisso qui. Io non capisco perché lei che cosa chiama a fare lei? Si che cosa chiama a fare per insultare Parenzo? Parenzo, querela mi coglione. Vabbè, di giorno lei, ma lei cammina con passo dell'oca la mattina a casa? Che non è questione di passo dell'oca, è questione di malattia mentale. Mi dispiace, signora Lores, lei è una poveretta. Mi scusi, ma è una poveretta. Maleducata. No, guarda, sono più ricca di lei, ma non di soldi, di cervello. Di cervello, sì, ma questo è veramente. Sì, non di soldi. Non ci vuole, moltissimo. Ma lei che fa nella vita? Si può sapere che fa nella vita? La battona. D'accordo, quanto guadagna? Facendo la battona. Ah, molto. Molto, eh? Sì, molto. Vi piacciono le battone, vero? Ma e anche i culattoni, vero? Non particolarmente, signora Lores. Ma lei veramente è un personaggio particolare. Ah, vi piacciono le escort. Vorrei giusto? Conoscerla di persona, signora Lores, perché è un personaggio veramente particolare. Ogni tanto chiama e se ne esce con degli insulti a Parenzo, faccio la battona, parolacce, insulti, ma va benissimo, perché... Che male c'è la battona? Ma no, ma assolutamente no, si figuri. E allora... fosse vero, detto, fosse nobile. Vero, fosse vero, ma non è vero, questo è il punto. Senza partita IVA. Ma sento dietro una voce femminile, che, chi è che vive con lei? È mia sorella che fa la battuta con me. Sua sorella, che coppia, oh. Lores da Vicenza. Bella famiglia proprio. Una famiglia. Bella famiglia proprio quella. Una cosa pazzesca, Lores. Dai, coglione di un Parenzo, stai zitto. Ma riempiti che bella con una candela adesso all'Halloween. Che sei una zucca famiglia. Vuota. Ma che bella famigliola, ma che bella famigliola. Marco da Sassari. La meglio della tua. Marco da Sassari. Marco da Sassari. Buonasera. Dica. Io volevo intervenire un attimino su gli interventi del professor Taormina, ovviamente. Sì, sì. Naturalmente io sono un avvocato, parlo da Sassari. Allora? Dico solo che se qualcun altro avvocato avesse detto la metà di quello che dice il professor Taormina, sarebbe stato espulso dall'ordine. In che senso, scusi? E nel senso, per esempio, la scorsa intervista, quando ha detto che lui aveva preso in giro i giudici varie volte, per esempio, assolutamente noi facciamo un giuramento nel quale diciamo che il nostro operato va... Vabbè, ma a prescindere da questo, la questione della... degli omosessuali che non sono accolti nel suo studio perché lui non ce li vuole, secondo lei è da denuncia all'ordine? No, non si configura un reato deontologico, un illecito deontologico. Certo che qualifica comunque la persona. Vabbè, quello ognuno la pensa. Grazie Marco. Andrea da Mantova, buonasera. Ciao. Dimmi. Ascolta, allora il discorso su qua, secondo me. Come? Il discorso secondo me è questo. Qual è il discorso? Stai strumentalizzando un po' troppo la cosa, mi senti? Sì, ti sento, dimmi. Stai strumentalizzando un po' troppo la cosa, perché allora... Che non si debba dire che gli omosessuali debbano essere rinchiusi, quella è una cosa giusta, però che uno nel suo ufficio possa scegliere di avere una donna grassa, una donna magra, un uomo, una donna, per dirti, io ho un mio collega, no? Che lui ha come assistente una ragazza, fa l'architetto, ti ho detto cavolo, ma prenditi un uomo, un geometra e sei già a posto, no? Sì. No, io voglio le donne, non voglio un uomo, ora sei razzista, no, io a casa mia faccio quel cazzo che voglio io. E questo è il discorso. Dopo, se viene fatto un concorso pubblico, Taormina si permette di dire no, i gay non ci devono essere, lì va condannata la cosa. Però a casa sua stiamo mischiando i... No, ma ho capito quello che dice lei, però non va bene lo stesso, non è che uno può dire io... Tu chiedi a tutti, ma se ci fosse un gay, se non ci fosse un gay, ma basta con quelle robe lì, sono persone normali come noi e vanno rispettate, è come dirci se uno ha l'orecchio più lungo dell'altro, ma lei ti piace quelli con l'orecchio più lungo dell'altro, uno ti dice no, a me preferisco quelli con l'orecchio alla pari. Cioè, basta chiedere. Ho capito, ma cose. Fa impressione o no un avvocato che dice io faccio le selezioni? Sono come noi, sono da rispettare. Vabbè, ma questo basta. A me lo dice. Che tu dire? Che continui a chiedere a tutti, a Barilla, a Tizio, Calcio, il problema se ci fosse un gay. Cioè uno a casa sua fa quello che vuole, però ti dico, sono persone come noi, vanno rispettate, basta, punto. Però se te devi fare la trasmissione... Ma io sono affari, ma sono affari miei le cose che chiedo, no? Cioè se a lei non piace, cambia canale, non ci rompe le scatole. No, a me piace come fai, basta, la radio. E allora basta. No, adesso trova un'altra notizia, un qualcosa, chiedi qualcos'altro, perché ormai a tutti gli chiedi di sti gay, sono come noi. Tanti amici gay, lesbiche. Vabbè, ma quello è scontato. Ho capito, Andrea. Vuoi fare la scena? Vuoi fare la. Comunque, io ho finito. Ti saluto e lascio il posto agli altri. Buona serata. Ciao. Ha fatto tutto lui. Ormai è tutto degradato. Che gira, che ronza, va zonzo, tranquilla nella stanza. La zanzara danza. Michele, provincia di Foggia. Pronto? Dica. Buonasera a tutti. Pronto? Sì, dica Michele. Allora, volevo parlare un attimino per quanto concerne questa questione dei gay, perché è tanto... diciamo all'ordine del giorno qua, tanti problemi che abbiamo in Italia. Sì, ma abbassi la radio, chiude il volume, faccia quello che vuole, su dai Michele, sempre le stesse cose. Bisogna ripetere, dai. Vabbè, ero un po' distratto, scusa. Vabbè, allora? Allora niente, io per ma come niente? Questione... Allora niente, cioè, ma che vuol dire allora niente? Allora? No, allora, allora niente per iniziare, stavo iniziando il mio pensiero, ti scusi. Niente, stavo parlando dei gay appunto, forse è un mito che io che dico sempre niente né niente. Comunque, la questione dei gay, sì, che tanto ci sta a cuore, se ne parla tutti i giorni, trasmissioni, sottrasmissioni. Vabbè, allora? Allora, la vogliamo finire una volta per tutte o no? Mo, si ma di fare cosa dobbiamo finire? Non ho capito, di cosa dobbiamo finire? Di parlare sempre delle stesse cose, di non parlare delle cose serie. Di non parlare delle cose serie. Siamo... Ma quali? Ma quali? Ma quali? Come, in Italia non abbiamo cosa a cui dedicare tempo per parlare un pochettino di queste cose più, un po' più sensate. Sì, cioè, lei vorrebbe sentire cose più sensate, tipo? La questione è che siamo messi economicamente in Italia, sì, mi sembra poco. No, assolutamente. Beh, no, quello... E allora? E allora parliamo sempre dei gay. Quello è dedicato gay, quello è gay, quello fa così, quello non vuol ricevere. Ma che cazzo se ne frega chi lo vuol ricevere o chi meno e chi no? Quando la zanzarina è con noi un vecchio amico della Zanzara, caro Parenzo, Corradino Mineo, senatore del Partito Democratico. Buonasera. Molto bene. Buonasera a voi. Dove si trova? In Sicilia. A casa mia. A Roma? Sì, sì. Ma non aveva preso casa a Palermo lei, senatore? Sì, ma bisogna stare al Senato fino a giovedì. No, per dire, alla fine... Domani alle 11 sono in aereo. Sento una cosa, ma lei che insomma, è uomo di televisione per tanti anni, come la vede questa polemica? Oggi Crozza ha detto, secondo me, una corbelleria in quell'intervista a Messaggero, che peraltro dice di non aver fatto, poi in realtà loro dicono di avere l'audio, vabbè, sono sempre gli artisti di sinistra a essere presi di mira, insomma, mi sembra un po' esagerato, francamente. Ma la disputa tra alcuni del PDL, in particolare Brunetta e Fazio, secondo lei, che è uomo di sinistra, sono troppi quei soldi a Fazio oppure no? Secondo me è un'aggressione proprio indebita di un signore che non sopporta la RAI, che probabilmente vorrebbe soltanto che ci fosse Mediaset e le televisioni di Berlusconi, perché Fazio può piacere o può non piacere, certo, ma ha un grande successo, milioni di spettatori, e porta la RAI anche in casi pubblicitari molto rilevanti. Allora non possiamo dire che c'è il mercato, che ci piace il sogno americano, che gli americani possono diventare ricchi, che questo è diciamo liberale e non socialista, comunista, sì, comunista, come volete dire voi, e poi prendercela con Fazio perché... Ma perché lo fa Brunetta? Brunetta perché lo fa, secondo me? Perché c'ha questa insistenza? Brunetta naturalmente vorrebbe tanto esprimere la sua verve polemica sul governo, sulla questione dell'economia, eccetera, eccetera. Siccome non lo può fare, si è trovato un avversario semplice. Cioè, si sfoga con la RAI. Francamente, non è che abbia sempre torto, sì, però in questo caso va a dare una battaglia. Cioè, quando è che ha ragione, per esempio? Un attimo solo, abbiamo 30 secondi e torniamo. 30 secondi di pubblicità. To be I or not to be? Qui sta il dilemma. Se sia più nobile incassare i colpi della concorrenza o reagire, munirsi in azienda di SAP Business Objects BI in edizione analitica, contrastare un mare di affanni e porvi fine. Scegli una piattaforma di business intelligence davvero completa, pensata per chi sa prendere decisioni, ma vuole farlo dati alla mano. Fino al 30 novembre, se sei un nuovo cliente, risparmi il 15%. Visita bihappy.it o chiama l'800-900-727. La Zanzara. Siamo con Corradino Mineo, senatore del Partito Democratico. Ma davvero lei pensa che quegli stipendi lì siano adeguati anche in questo periodo? No, ma io lo dico senza moralismi, per carità. Quelli non sono stipendi, quelli sono compensi, contratti, dei collaboratori, sì, che stanno sul mercato. Allora, o non ci piace il mercato, oppure siamo costretti a darli, mi spiego? Quello che a me mi meraviglia non sono gli stipendi di Fazio o quelli di Crozza, sono per esempio una cosa che ho scoperto nel mio lavoro di senatore, un ente, uno dei tanti enti che si occupano di agricoltura, che servono molto poco e andrebbero chiusi, ha un direttore generale che prende 800.000 euro l'anno, spiego o no? Per sempre, allora, lei dice, cosa, per sempre poi. Questo è veramente una cosa incredibile. Allora, il problema è che invece di affrontare la questione vera, cioè che c'è una disparità salariale vergognosa, che c'è un popolo. Ma anche alla RAI, comunque, anche alla RAI ci sono dirigenti. Anche alla RAI, anche alla RAI, ma guardi, soprattutto alla RAI, se vuole parlare dei dipendenti, il problema è quello, è un altro, è che ci sono tanti dirigenti, che i dirigenti, bravi o cattivi che siano, restano sempre dirigenti, prendono stipendi rilevanti, mentre un precario o un neoassunto prende nulla, soprattutto se non gli si dà la possibilità di... Ma ecco, ma qual è l'obiettivo vero di Brunetta per queste polemiche, secondo lei? Che c'è? Ma l'obiettivo vero di Brunetta è intanto visibilità, perché naturalmente è semplice prendersela con le persone note, questa è la prima questione. Poi? La seconda questione è che vuole dimostrare al suo partito di essere un crociato della battaglia antisinistra. La terza questione è che Giornale e Libero hanno sempre fatto questa questione, si ricorda Santoro e quanto altro, e lui dice: beh, ecco, qui sono io il campione di questi. Mi sembra che non bisognerebbe correre di neanche tanto dietro, ecco, voglio dire, francamente. Ma in che cos'è che ha ragione? Lei prima ha detto qualche volta ha ragione sulla RAI, per sì, esempio. Ha ragione quando dice che tutto sommato si stava meglio quando si stava peggio, cioè la RAI dell'ultima fase, io me ne sono andato, grazie a Dio. Gubitosi. Beh, non se n'è andato ancora del tutto, lei ancora. Ora ne parliamo. È una RAI che non mi piace, cioè il fatto che si sia concesso a un direttore generale di fare un enorme numero di assunzioni di manager esterni che ha messo in tutte le posizioni chiave con la scusa che quelle non sono diciamo nomine editoriali ma nomine manageriali, significa che lui ha di fatto privatizzato intorno alla sua persona la RAI, che ha le risorse in mano, e questo senza controlli democratici. Ma quante persone ha occupata mano militari? Quante persone ha assunto? Esattamente. Allora io ce l'ha occupata mano militari, questo sta dicendo? Sostanzialmente sì. Sostanzialmente sì. Su, ma quanti, quante... le do uno scoop. Quanto guadagna Gubitosi? Cioè, cos'è che dice? Oltre 600.000 euro, mi pare di capire. Cioè ben il doppio di quello che guadagnavo io dopo 35 anni di RAI. E dopo aver fatto tutto il corso sonorum da redattore fino a direttore. Cioè, che vuole dire che è incompetente, passando... che è incompetente e ruba i soldi? No, non dico che è incompetente, non mi permetterei mai, però dico che la facilità con cui si concedono a manager non con un curriculum straordinario stipendi di questo tipo, e nessuno si meraviglia, e poi se ci si concentra sulle persone note, mi pare che è un moralismo, diciamo, molto discutibile. Allora torniamo con lo scoop dopo la pubblicità. Qual è? Uno scoop. Qual è? In questo momento questa direzione generale della RAI ha preso in mira uno dei giornalisti storici, cioè? Della RAI, Antonio Cabrasca. Antonio Cabrasca, un attimo, torniamo su Cabrasca un attimo, dopo la pubblicità, adesso torniamo che non ho capito bene. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità. La zanzara. Non mi mordere il dito. Tazza di merda. Non mi macchiare il vestito. Ma non mi mordere il dito. La voglia ce l'ho. E non mi mordere il dito. Silenzio la vecchia. Siamo 24 ancora rimasugli mitici frattaglie di Radio Belva. Siamo con il senatore Corradino Mineo, Partito Democratico, che ci stava dicendo una cosa sull'ex direttore di Radio Rai, nonché corrispondente da Londra, eccetera, Antonio Cabrarica. Che succede di male al dottor Cabrarica? Ho avuto notizia di una lettera di Antonio, io non ne ho parlato con lui, al presidente della RAI, al presidente della Commissione parlamentare di vigilanza, in cui Antonio dice che lo vogliono fare fuori. No. Ma d'altra parte anche la... Ma non ho capito, cioè chi è che lo vuole far fuori? Immagino questa attuale direzione della RAI. Ma in base perché? A cosa? Quello... All'anzianità? Invece, quando si è trattato di avviare verso l'esodo, diciamo, un certo Simeon, che era un giovanotto che era diventato per quali meriti addirittura direttore di Rai Vaticano, direttore dei rapporti istituzionali, gli si è dato un contratto di 2 anni, praticamente una sicura, in Brasile per curare, non so bene, i mondiali di calcio. Invece quando si tratta di un pezzo della storia della Rai, come Antonio, si va giù pesanti. Allora, io credo che ci sia... Vabbè, cascherà in piedi, il signor Cabrarica, non è che cascherà giù. Ma vedi, quando dici questa cosa, cioè, già che tu usi due pesi e due misure, siccome Cabrarica lo conosci, deve morire. No? Io devo morire, figurati. Ha ragione, Corradino. Di questa situazione, di questi stipendi, vanno bene, perché tanto non sono noti. Però... Non ha senso. Antonio avrà, come me... qualunque difetto, ma è un pezzo della storia. Ma figuriamoci, è un fior di giornalista, però, è un grandissimo. Scusami Corradino, se uno fa, succede solo alla Rai, che uno che fa il direttore resta a fare il direttore tutta la vita. In altri posti, quando uno fa il direttore, a un certo punto se ne va via, quando l'azienda lo per motivi A, B o C. Succede solo alla Rai, perché ti faccio presente che tutti i direttori che sono andati via dalle varie testate hanno avuto fior di collaborazioni straordinarie. Vabbè, collaborazioni straordinarie è un altro discorso. Io sono assolutamente rigido su queste cose, per cui penso che quando uno ha fatto un'esperienza, per esempio io l'ho fatta, mai e poi mai rientrerei dopo aver fatto il senatore in una posizione di direttore, soprattutto del servizio pubblico. Non ci penso nemmeno, anche se me lo proponessero direi no, grazie. Scusi, Corradino, qual è la cosa peggiore, l'assunzione peggiore che ha fatto Cubitosi, secondo te? L'assunzione peggiore, non è questione di peggiore, è che io praticamente sapevo che in tutte le zone gangli vitali dell'azienda c'erano delle persone, magari berlusconiane, come volete voi, ma erano delle persone che legavano i loro orizzonti all'azienda Rai, che in qualche misura capivano, mi capivano quando... Invece lui ha messo tutti esterni. Bisognava valorizzare le risorse interne, che bisogna cambiare il modo di produrre. Ora ci sono tutte persone che rispondono direttamente a chi le ha assunte, senza il controllo del consiglio di amministrazione. È una cosa incredibile. Oltretutto, siccome io conosco un po', ho girato un po' il mondo, quando in America qualcuno fa questo tipo di operazione, cioè controlla tutta l'area manageriale e non tocca il modo di produrre, prima o poi lascerà cadere un pezzo importante della sua azienda. Quindi sono preoccupato per l'azienda nella quale ho lavorato 35 anni. Allora, voglio chiedere a Mineo se però è necessario che gli stipendi di Fazio, insomma, delle persone più in vista, ma non solo di quelli, vengano resi noti, perché Brunetta ha parlato anche di questo. È giusto o non è giusto? Io su questo sono assolutamente d'accordo. Bisogna avere un rapporto americano di trasparenza delle proprie retribuzioni. Quindi cioè, sbaglia Fazio in questo. Okay, sbaglia ma vale anche per gli altri, se permetti. No, d'accordo, ma tu dici... Le persone molto meno note di Fazio. No. Ma tu, Corradino, quindi dici che Fazio avrebbe dovuto, come dire, rispondere dicendo il compenso. Ma perché? Scusa, ad una provocazione di quel genere io non avrei mai risposto. Trovo che se la sia cavata benissimo. Vabbè, ma l'ha invitato in studio. Un signore senza titolo, il quale invece di rispondere a delle domande, come sarebbe buona educazione per chiunque, attacca sul piano personale. Anche questa è una tecnica... Guarda, inconcepibile. Ho capito, Corradino, ma l'ha invitato, se lo aspettava. Scusami, ma tu per immagini in Inghilterra o in America un signore invitato, un politico invitato, che in quel modo petulante la mette sul piano personale? Però scusami, cioè, il giornalista gli dice, scusa, io non gioco. Ma te stai scherzando davvero? No, però Corradino, scusami un attimo, però se tu inviti Brunetta, che è da mesi, se non da anni, che fa una polemica sui costi, eccetera, che cosa ti puoi aspettare? Che non ti pungoli, che non ti stuzzichi sulla questione dello stipendio e dei soldi che guadagni? No, io non ci penserei, io gli risponderei, come ha fatto lui, benissimo, dico scusi, ritorniamo alla natura dell'intervista, alla natura delle cose, ma io non devo rispondere a Brunetta, poi se... mi chiedi in generale che cosa penso? Penso che ognuno di noi non si deve vergognare di quello che guadagna, e lo deve dire, no? Ma lo deve pretendere. Gasparri dice che devono andare con un cartello davanti con scritto quanto guadagno. Sì, Gasparri ha detto questo. È ridicolo, questo è grottesco. Cioè, voglio dire, allora io vorrei sapere meglio quanti manager, padroni, padroncini, questi signori del Popolo della Libertà hanno coperto. Quanti soldi questi signori hanno avuto, perché prendersela soltanto con alcune persone note è una forma di demagogia intollerabile, capisci? Io non ho ancora capito, secondo te, perché ve lo fa Brunetta? Intanto si è dimesso Monti da presidente di Scelta Civica, detta anche Sciolta Civica, nessuno, come dire, non ci sono i carri armati per strada, non ci sono i carri armati per strada, è un evento politico. Ma quella invece è una notizia politica rilevante. Una politica rilevante, non c'è dubbio. No, è una notizia politica rilevante. Assolutamente. Monti è stato molto critico nei confronti della manovra. Della manovra, assolutamente. Della manovra, invece il suo partito sostanzialmente lo sostiene, c'è stato un divorzio. Assolutamente no, questa è una notizia politicamente molto importante, anche se non so se la sera non la è gente un problema di sciolta, ecco, voglio dire. No, no, è il partito che ormai fare la su tutto, naturalmente, però no, ma siccome da tempo si dice non scelta civica non esiste più, e uno infatti si fa ironia su, si può chiamare sciolta civica, diciamo, è una ma tendenzialmente il sistema politico, non vi sarà sfuggito, è in corso di destrutturazione, quindi diciamo tutto quello che succede implica che quell'assetto che c'era, che aveva durato per alcuni anni, non funziona più e si cercano assetti nuovi, ecco. Voglio dire, questo, ma lei ha fatto pace con Grillo, è sempre nel mirino di Grillo lei? Ma io non sono nel mirino di nessuno, mi sono molto divertito, perché sono resto giornalista, a vedere, mettendo con educazione alcuni elementi critici della loro politica, cosa succedeva. E c'è una specie di neuropolizia, cioè ci sono 600-700 persone che vivono la loro giornata sul divano a scrivere tweet, che si scatenano, che vivono del fatto che Grillo, che ha un grandissimo diciamo pubblico, li ritwitta. E questo tipo di roba non si limita a dire, la cosa divertente, la cosa che ho scoperto, è che non si limitano a dire Corradino Mineo è un pessimo perché sta nel PD, che è un partito, eccetera, eccetera, eccetera, ma dicono doveva essere cattivo pure prima. È un meccanismo divertentissimo, perché è lo stesso meccanismo di tutti i sistemi autoritari. Ti faccio un esempio. Cioè, che significa certo sistemi autoritari? I nemici di Stalin venivano cancellati dalle foto accanto a Lenin, no? Perché non poteva stare. Allora, questo voler ritornare indietro, questo è un aspetto preoccupante del Movimento 5 Stelle, che ha e esprime molte cose positive, ma poi ha... Ma che cos'ha? Una vena autoritaria? Una vena staliniana? No, il modo con cui... guarda, lo dico semplicemente, il modo con cui loro usano il web non sia affatto democratico, sia tendenzialmente totalitario. Cioè, questi sul web sono i suoi bastonatori. Addirittura, ma anche i deputati, non solo i militanti, no, anche i brandellatori del web. Sono i bastonatori prima di tutto dei loro deputati, perché quello che fanno con noi esterni è poco rilevante, quello che fanno con i loro è pesantissimo. Ma secondo te sono anche secondo te sono anche guidati questi qua che intervengono da Casaleggio e da Grillo? Sì, cioè il meccanismo non è che c'è bisogno di una polizia che li guida, il meccanismo è molto semplice, tu sei un signor nessuno, presidi il web e scrivi insulti, vergogna, buffone, eccetera eccetera. Quando Grillo ti ritutta, tu diventi improvvisamente qualcuno, evidentemente vengono usati per questo. Cioè vengono usati questi militanti grilli sul web, vengono usati da Grillo e Casaleggio per bastonare spesso nei confronti dei loro senatori e dei loro deputati. Appena fanno una cosa che non è esattamente secondo i desiderata, vengono bastonati. Questo è un fenomeno, diciamo, interessante dal punto di vista del costume politico. Cioè, fascisti del web. No, io fascisti non vorrei, perché sennò si fa tanta confusione. Questo è un uso del web molto discutibile. Devo dire che peraltro dentro il Movimento 5 Stelle c'erano, ci sono, e anche il lavoro fatto da Grillo nel rapporto di massa in campagna elettorale era straordinario. Ha espresso delle cose di cui tutti dovremmo tenere conto, ma questo non è accettabile. No? Va bene, grazie Corradino, a presto. Grazie, ciao, ciao, pubblicità. La Zanzara. Albertini, vieni giù, che sei frocio pure tu. Quando la zanzarina. Siamo qui, Parenzo, cosa ti perdi? Fra poco un grande ospite, tra qualche minuto, 800 24 00 24, in studio qui a Milano, purtroppo non sei qui. Mi ritrovi al telefono, ma insomma tra Vabbè, solito tuo, insomma. Alessandro da Treviso, fra poco, l'esplosione, una bomba pazzesca, Alessandro da Treviso. Sì, Alessandro, Alessandro. Chi ha parlato là sotto? Buonasera. Grazie per l'intervento. Quale intervento? Grazie, intervento che è un convegno. Ma ancora non c'è stato. Dice, grazie compagno per la relazione. Cioè, grazie per la possibilità di intervento. Volevo intervenire. Ma quale possibilità? Vabbè, Alessandro, vada. Ma se uno chiama, volevo grazie per intervenire sul caso Priebeck. Sì. Volevo dire che la politica non serve a niente. Sì. Tanto vale metterla loro nelle cerdiatine. Loro chi? La classe politica non serve a niente. Che significa non serve a niente? Mettere delle salviettine? Che non serve a niente, è una classe politica che non conclude niente, che siamo lo zimbello di Europa. Poi? Da quanto tempo voleva telefonare lei? Che non lascerei andare alla deriva nel Mediterraneo. Chi? Ma chi ha la deriva nel Mediterraneo? Chi bisogna andare? Chi bisogna lasciare la deriva nel Mediterraneo? Ha ragione Parenzo, da quanto tempo lei aspettava di intervenire per dire questa minchiata colossale? Quanto? Quanti giorni? SS che doveva morire e non sopravvivere al suo Führer. Ho capito, è morto, è sopravvissuto fino a 100 anni, che vogliamo fare? La salma la buttiamo nel Mediterraneo. La buttiamo nel Mediterraneo, così, la buttiamo come facevano i nazisti e i fascisti, no? Nella seconda guerra mondiale. Come lasciamo andare i morti? Sì, come facevano gli altri, come facevano gli stati totalitari. Parenzo, la pensa come lei in realtà? No. Cioè, come facevano gli altri, bisogna trattare pure i morti, no, i vinti morti. Come no, non ho detto mai questo. Gli africani che muoiono annegati, cosa sono? Bravi. Gli africani ma che c'entra con Priebke questo? Cosa c'entra con Priebke c'entra questo? Benissimo. Ma non c'entra nulla, no, nulla, zero. Qualcuno mostra molta più pietà perché sono degli indegni, trasformati degli indegni del loro destino. Ha ragione questo qua nella sua follia, cioè c'è molta più umanità per qualcuno, c'è molta più umanità nel cadavere di Priebke che non nella in quei poveretti. Ma che stai dicendo? Ma come parli? Mare. Ma non è Radio Maria, Giuseppe da Catania, dai, mamma mia, questo è morto di sonno ormai. Giuseppe da Catania, su, dai. Sì, pronto. Dica. Ti volevo fare una proposta di fare una donazione ai partiti dell'aumento che ci daranno l'anno prossimo, visto che hanno avuto meno con il finanziamento dei partiti. Ah, lei sta dicendo delle cose ridicole che dovrebbe tornare nelle tasche degli italiani, sì, 14 sì. euro in più al mese, sì. L'elemosina la facciamo a loro. Se la merita, bravo, no? bravo. Emanuele da Ferrara, buonasera. Buonasera. Dica. Buonasera, Cruciani. Niente, volevo fare un plauso finalmente a una ascoltatrice che ha avuto il coraggio di dire qualcosa a Parenzo. Tale Doyle di dov'era? Sì, di Vicenza, una cretina. Una Fräulein di Vicenza, una cretina. Una nipotina di. Tanto qui di fronte a me c'è una persona che si sta truccando, ti dico solo questo, anche se è alla radio, comunque va bene. Emanuele, allora? Finalmente ci sono anche le Fräulein, perché basta. Ma cosa devo? Ecco un altro nipotino. Scusi, lei è d'accordo con quella pazza di prima? Lei è d'accordo con la pazza di prima? Altro nipotino di prima. Assolutamente. Ecco il nipotino. Ma sentiamo Annalisa da Milano. Emanuele, Annalisa da Milano. Altro nipotino. Buonasera, sono Annalisa. Dica. Senta, ho chiamato, vi ascolto spesso, ho chiamato per dire due cose, una semiseria e una più seria. Quella semiseria è che lei e Parenzo, dopo il trattamento Lores, siete più mansueti, ascoltate di più. Ma quale mansueti? Ma quando mai? La signora, vede, quindi forse la signora Lores dovreste assumerla a dosi regolari. La signora Lores è malata di mente, glielo dico, picchiata in testa. È già legata a un letto di ospedale. Però, la stanno portando via, ma va benissimo, per carità. Ma secondo me comunque a piccole dosi non vi fa male. Per quanto riguarda la cosa più invece seria, il discorso qual è la dell'omosessualità, cosa seria? Sì. Discorso dell'omosessualità e l'ambiente di lavoro, ci si dimentica spesso che scegliere i propri collaboratori non significa scegliere solo persone competenti, ma anche persone con le quali ci si sente. Cioè, lei non farebbe mai. Che lavoro fa lei, Annalisa? Scusi. Dica. Che lavoro fa lei? Io sono un medico. Un medico? Ha delle persone medico che dipendono da lei? Ha delle persone che dipendono da lei? Ho delle persone con cui lavoro. Con cui lavoro? Lei farebbe piacere lavorare con una persona omosessuale? Le ripeto, il concetto di dinamiche emotive. Ma che cosa vuol dire? Ma è una follia una cosa di questo tipo, una follia totale. Non è che uno può pensare, come dice Taormina, che prendendo un omosessuale si mette nello studio uno con le piume, uno che viene col pisello di fuori o uno che va con vestito come gay pride. Ma di che stiamo parlando? Vero? Dai, le su. Piace estremizzare ma è così. Ma l'avvocato, il professore, un amico, ma sbaglia. Non è che può pensare che entra nel suo studio di avvocato un omosessuale ed è tutto strano, vestito diversamente. Io ho chiamato per parlare con lei, ma lei invece sta parlando da solo. Ma io parlo da solo, io parlo, Annalisa, cara Annalisa, lei ha detto scegliere le proprie persone è importante, perché naturalmente bisogna vedere, ma questo siamo con d'accordo. Con chi si va semplicemente d'accordo, ma questo non riguarda l'omosessualità. Ma di questo parliamo però, ma di questo stiamo parlando però. Come ha detto l'ascoltatore precedente, non dovrebbe più nemmeno essere un tema. Ma di questo parliamo, poi che sia importante scegliere i collaboratori in base alle proprie esigenze, non c'è dubbio questo allora, è la palissiana, no? Possiamo essere così aperti di cervello da accettare che una persona possa essere a disagio con l'omosessualità perché magari rimanda un vissuto di omosessualità personale? Ma che c'entra? Non è possibile? Ma non c'entra ma nulla. C'entra? Cruciani, la realtà è più complessa. Ma poi ognuno fa quello che vuole, dopodiché poi come io si fa a riconoscere? Scusi un attimo, se io mi presento domani, cioè ho fior di amici miei che sono omosessuali, se io mi presentassi domani allo studio d'avvocato Taormina, se mandassi una di queste persone, sono sicuro che l'avvocato Taormina non riconoscerebbe queste persone come omosessuali. Ma sì, ma l'avvocato Taormina... Vabbè, abbiamo il traffico, poi Efe Ball, traffico. Viva i fraci! La zanzara. Sono Cruciani, Cruciani e Parenzo dalla Zanzara. Ah, per quel cesso di trasmissione. Le zanzare di casa. Oh, caro Parenzo, caro Parenzo, è qui con noi Efe Ball. Buonasera a tutti. Si può dire uno dei transessuali più conosciuti in Italia. Capra, capra. Prima abbiamo capra. Parlato del mio pisello, forse per quello che si è preso un pochettino. Come? Ho chiesto un attimo mi ha chiesto gentilmente con le la dimensioni. Sua mano ha chiesto se ce l'ho l'uccello lì, ho detto sì, ma forse per quello si è preso, ha cominciato a dirmi uno. Ah, cioè. Dio santo. Vabbè, buonasera, sì, una delle poche volte che ti vedo un pochettino così all'imbrazzo, è una cosa bella. Comunque prima vabbè, è stato veramente delizioso poterti toccare. Ma specifichiamo, non è che hai toccato. Posso toccarti di nuovo? Sì, toccami di nuovo, sai, toccami di nuovo. Sto toccando, sto toccando lui. Stai agitando, no, no, dai. Vabbè, io io mi sono, scusami David, io volevo subito chiedere a Roma a Efe Ball, e non vedo la quale, la quale Efe Ball in realtà è una persona seria, non è che è una sprovveduta. La signora Efe Ball, la signora Efe Ball, che pur avendo è una signora, e la quale sostiene che le prostitute, perché lei fa quello di mestiere, fa la prostituta, sì. Beh, la insomma, prostituta sì, fa la prostituta, diglielo, sì, la Parenzo, sì, sì, io faccio la prostituta, fa la voglio cambiare la vita, infatti voglio aprire un negozio, voglio essere una commessa in H&M o in Zara da qualche parte. Parte, sinceramente Zara, voglio, sì, voglio fare part time un lavoro normale in modo che posso dialogare con le persone normali, li posso toccare, cioè, li trombare posso, di meno lei dice, no, forse trombare di più ma con le persone più, come si può per dire, per amore, che, diciamo, sì sì, che ti incontri mentre vendi una, non una per camicia, soldi, ma, no, ma siamo questi, in questi sì, grandi sì, magazzini sì, non voglio, si fa dopo, così però, dopo 12-13 anni voglio un pochettino cambiare questo mio modo di vivere, sì, avere una vita veramente molto normale, molto socievole, con un lavoro normale. Infatti sto cercando un lavoro. Ah, stai cercando un lavoro? Sì sì sì, proprio, sì, ma chi o voglio a te, cioè non è, beh, una cosa bellissima, voglio fare una bellissima pubblicità sul Corriere, altrimenti cioè, magari anche tu hai visto che ci sono affissioni in città, ma però la notizia è questa, Efe Ball non vuole più fare la prostituta, no, io voglio fare part time, poi magari, beh, capito, tra 5-6 anni non voglio più fare. Come part time? Cioè vuoi, beh, fare anche a Finmeccanica, potrebbe lavorare, allora, a Finmeccanica, una persona può fare la prostituta anche come hobby, cioè, eh? Una persona può fare la prostituta, sì, anche per hobby, no? Uno può dire io lavoro in negozio, è pieno di gente che fa così, se tu con le persone che non vuole andare a letto diciamo, amore, tu vuoi, sì, veramente andare con me comunque? Vuoi scoparmi? Vuoi baciarmi? Beh, vuoi toccarmi? Vuoi succhiarmi? Vuoi che ti scopo io? Ebbene, come, visto come che non mi intrighi molto, allora mi paghi o altrimenti mi compri una borsa. Tante donne fanno, ci cioè dicono, sì, si flirtano prima un pochettino, certo, dicono, amore, dubbio, dai andiamo a cena, guarda ho visto una borsa là, ho visto un'altra scarpa lì, e fanno. Però po', scusi, allora, signora Ball, sì, le voglio dire una cosa, lei con quante persone va al mese? Ha fatto un calcolo? Ma questo dipende anche di... Un mese, diciamo, denso, un mese denso di forse 200 ci sono certi che anche ritorno, ma che dura poco, capisci? Beh, cioè, ho capito, che... però 200 sono 200. Ah, allora 200 all'anno, quindi... quanto fa? 200 per 12. Guarda, un anno fa ho scritto un articolo su di me sul Cario Editore 2004 F, all'anno. Credo che ho visto fino adesso più di 10.000 uomini. Però sono stato 10.000 uomini, sì, con, pure sì, con le donne, immagino, no? Qualche volta anche le donne, sì, sì, sì. Però vedi, lei è sana, un rapporto, ha fatto testa, sì, anche con il mio libro. Ce l'ha dietro qui il test, purtroppo, no? No, ma con il mio libro potete vedere nell'ultima pagina c'è il mio test per HIV, il libro che è uscito da Mondadori. Quando è uscito però il libro? E il libro è uscito 3 anni fa. Non ho portato qui, perdonatemi, avrei portato comunque. Vabbè, comunque, la cosa seria è questa, che sì, il signor Efe Ball vuole pagare le tasse. Io voglio pagare le tasse perché qui ho portato non ma il anche test gli arretrati? Ho visto i manifesti in giro. Anche ma, gli arretrati? Sì, voglio, no, essere una persona, meglio di no, eh. Voglio essere una persona nero, normale. Ma adesso quanto ha guadagnato? Voglio nero essere una persona normale. Ma questo siamo d'accordo. Qui dice che negli ultimi 5 anni ho fatto più di 936.000 è euro. Vero? Infatti, beh, sono un conto corrente mio. Dovrei e infatti 172.000 euro dovrei pagare. Fammi finire quando parlo. Non vai così. Tuc, tuc, tuc. Ma anche quando fai sesso sei così? No, no, sono un po' più lento. Fammi vedere. Tu, ma che tu ci credi? Vedere, tu ci credi in sesso stesso? Secondo me ti piace parlare sporco. Caccino, no, porco, no, questa cosa. No, però, se ti piace, cioè, secondo me che te le lecco i piedi. No, vabbè, adesso non esageriamo. Ma che la balla. Secondo me sì. No, però anzi, al di là di... Ma è andata ospite anche da Barisoni, lei, signora Balla? Io... No. Chi è Barisoni? No, il signor Barisoni conduce questa trasmissione di grandissimo successo prima della nostra, però si occupa di temi molto alti, cioè dell'economia, delle ma lo vedo, quanti politici è andata, signora Balla? Lo vedo molto imbarazzato. Ma veramente voi che te le lecchi i piedi. Ma sì, ma dopo lo faccio dopo, casomai. Adesso, in questo momento no. Cosa fa? Adesso, ragazzi, non sto leccando i piedi. Non, no, ma no, non accadrà mai. No, però siamo a balle. A focus, secondo me, non accadrebbe abbiamo mai. Tempo, abbiamo così. Tempo per queste cose. Io voglio dire una cosa. Ecco. I piedi però mi piacciono, non è avevo immaginato. No, ma che immaginato? C'è qualcuno che sempre piace così a voi due. No, non ho avuto il dialogo con nessuno. Sono andata a bagno. Con quanti uomini politici è andata lei? Mi dica. Tanti. Qualche volta. Io amo programmi come programmi? Io amo programmi televisivi che si intendono in politica, perché vado su Tele Lombardia, faccio l'opinionista qualche volta e mettono davanti con una legge. No, sì, guarda, no. Mi intendo molto bene, ti assicuro. Vuole che vuole parlare adesso delle tasse? Vuole io parlare potrei della anche parlare di tasse, anche di questa l'ultima manovra che hanno fatta, che ci avrete 14 euro in più in tasca. Quindi che sa tutto, brava, brava. Ovviamente comunque sia, ogni volta che vedo questi programmi dico: ah, ma questo che voleva che dedicassi i piedi, ma quell'altro con pene grande, ma quell'altro che voleva scopare, ma no, ma, quell'altro, ma anche che voleva, ma sì, ne vedo tantissimamente, ma ne vedo tanti, ma lei racconta un ma po' di balle, anche direttore di giornali, anche ma politici, ma lei racconta un sacco di balle però, perché, ma come posso, allora, perché finché non ci sono i nomi non scusami, ci si può credere. Qui ce l'ho una foglia di agenzia dell'entrata 936.000 euro, altrimenti come ho fatto in 4-5 anni, scusi, ma se non sono andata eletto con politici, se non sono andata eletto con politici, ci sono solo i politici che hanno i soldi, è pieno di imprenditori, di gente, quelle che dico quando accendi il televisore, però li vedo, uno però può dire tutto quello che vuole, sempre un politici, segreto, ma che andranno con me in tomba. Ah, è troppo facile, ma così, troppo magari facile. Ma allora facciamo una ma è cosa, è troppo facile, tu così mi fai leccare i tuoi piedi? No, ma adesso che c'entro? Passiamo, io non c'entro niente, male, facciamo le serate me insieme, ma non c'è, male, ci sono a Roma, ma magari ti svelo oggi qual è la tariffa. Non ho capito. Per un incontro con te, quant'è la tariffa? Ah, adesso per non sentire troppo, anche per un po' di crisi, sinceramente, faccio mezz'ora, 20 minuti 100, un'ora 200. Ma cosa pazzesca, perché una volta quant'era? Una volta 40 minuti 200, che venivano più anziani. Sì, beh, che certo, voglio più giovani. Ma per Cruciani fa gratis? Giovani che guidano la macchina, venite da me. Ma per Cruciani fa gratis? Per sì, Cruciani? Certo, dai, no, quando? Che grazie, quando no, facciamo? Adesso dopo il programma? È Parenzo che esagera, dai. No, io sono a Roma, per fortuna. Ma dimmi la verità, quando mi vedi? Io certe cose guardo. Quando mi hai visto prima, cosa hai pensato? Nulla, non mi fa nessun effetto. Veramente? Zero. Se ti faccio vedere la tetta. No, ma no, ma non si può qua. Non si può. Siamo alla radio di Confindustria. Ma non si c'è può nessuno. Ma non si può. Ma non c'è, c'è nessuno. Ma vabbè, sì, facciamo il nome di un trasparente. Facciamo so il nome di un politico. Assolutamente non lo uno, posso uno fare. Solo, no, uno solo. No. Guarda, persona ma sono sbagliata. Tutte balle, sono tutte balle. Uno vabbè, può inventarsi. Sono andato con 100 politici, 200 politici. Ma se non ho mai raccontato, va bene. Come li hai investiti questi soldi? Come li hai investiti? Ho comprato gli appartamenti, gioielli, vacanze. Basta. Te la sei divertita, su? Ma sì, divertita. Ho una vita veramente molto normale. Ma uno di questi politici non è che è morto per caso? C'è qualche politico deceduto? No, questi no, non lo so. Quando un cliente non si presenta per 2-3 anni, penso che sono morti. Perché a me normalmente tornano quasi tutti. Tornano tutti. Quando non lo vedo per un anno o due, anzi, mi chiamo e mi dico: ma pensavo che sei morto. E lui dice: ma cosa cazzo dici? Io dico: ma veramente da 2 anni che non ti sento, che fine hai fatto? Parenzo, ecco, hai qualcosa? Ma signora, sì, volevo ecco, capire, signora F Ball, F è il nome, Ball F è il nome, che vorrebbe dire eroe. Ball vuol dire miele, miele, ma quelle che mangiate. Nome, ma è un nome di battaglia il suo? No, assolutamente, il mio nome sul passaporto è così, F Ball, ho capito. Ball, sì. Lei ha visto, signora Ball, che oggi il signor Obama ha incontrato Letta. Ma che c'è? E ha avuto scusa anche. Vediamo, cioè, vediamo. E ha avuto grandi apprezzamenti, dicendo che l'Italia è nella veramente giusta direzione. Veramente non ha avuto apprezzamenti molto dall'Italia. Vabbè, ho sentito detto questo. Ecco, lei pensa che l'Italia ce la possa fare in questa difficile fase politica ad uscire dal tunnel della crisi, signora Italia, F Ball? Italia, finché non vede 50.000 persone che si prostituiscono ogni anno, che non riescono a pagare le tasse, pure senza vergogna gli mandano anche un accertamento, non può mai uscire dal tunnel. Che farebbe lei col cadavere di Priebke, signora F Ball? Io voglio pagare le tasse. Altra domanda seria di Parenzo. Che farebbe lei col cadavere di Priebke, signora F Ball? Allora, prima di tutto, quando sento che lui ha vissuto per 100 anni, non ci credo più in Dio. Cioè io non capisco che un ragazzo di 30 anni muore da un tumore, un deficiente che ha ucciso 300 persone almeno, cioè, accertati, e che vive ancora fino per 100 anni. Devo dire che la pensa cosa come avrei fatto? La pensa cosa come te? Cosa avrei fatto? Abbiamo la l'avrei pubblicità ucciso, avrei l'avrei buttato in mare. Basta. Come te la pensa, Parenzo? Non ti no, io non l'avrei mai buttato al mare. Pubblicità e borsa, no, un attimo. Vieni qua che ti le succhio. Ma no, dai. La zanzara. Ti in testa. Però io vorrei un attimo risolvere la questione cancellieri prima di tornare con la signora F Ball, perché vorrei capire dal ministro della giustizia, cancellieri, il significato vero di quella metafora. Proviamo a chiamarla, va, su, proviamo a chiamare, a fare il numero di telefono, perché quella metafora lì, no, è fondamentale, quella che ha fatto oggi la signora Cancellieri, cioè l'amnistia, l'indulto, la ma figura di se risponde il ministro degli interni, aspetta, sì, ministro della giustizia, aspetta, adesso la pizzichiamo, ora di cena, poi sì, sì, la pizzichiamo, guarda. Pronto. Ministro, buonasera, Radio 24, sono Cruciani, c'è anche Parenzo. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Mi dica. Senta, ministro, la disturbiamo? Scusi, la becchiamo in un momento difficile? Diciamo che è stata una giornata piuttosto impegnativa e movimentata. Lo so, però vorremmo capire il significato di quella metafora che lei ha fatto, cioè la carne, le uova, la carne, le uova, ce la può spiegare bene? Guardi, in merito bisogna fare un discorso ragionevole e plausibile. Cioè? Lei pensi, immagini, che devo fare pranzo. Allora il figlio mio deve andare al supermercato. Lui pensa, sì, se te compri un chilo di carne te fa comodo. Ma bello mio, certo che fa comodo. Poi lui mi dice che non c'hai soldi per la carne. Allora che facciamo? Beh, appunto, che facciamo? Non ho capito niente, però. Non abbiamo capito niente, però. Scusi, ministro. Nulla. Guardi, forse le mie affermazioni sono state parzialmente travisate. No, ma non è che sono state travisate. No, sono state parzialmente travisate. E sono cose che certa stampa grillina non dovrebbe fare. Ma non c'entra niente la stampa grillina. A poche cose io tengo, ma l'onore in cucina per me è più sacro di tutto il resto. Facciamo un esempio. Sì, facciamo un esempio. Esempio. Bah, sì, lei va a comprare della carne. Sì. Che ne so, una bracciola piuttosto che delle costine da pacchio, sì, oppure un lombo della rozza di maiale. Sì. Ma se i soldi non glieli danno, che deve fare? No, beh, ho capito, ministro, no, però ma quindi non capisco cosa vuol dire. Ma che vuol dire ancora? Io non ho capito bene sta storia. Vogliamo risentire quello che ha detto lei? Perché almeno lei, riascoltandosi, se lei si riascolta, ministro Cancellieri, forse, mi scusa, forse se vuole che le dica. No, adesso, sì, adesso no, d'accordo, però adesso se lei si riascolta può darsi che arriva a una soluzione. Riascoltiamo quello che ha detto oggi. Aspetta. Sì, appunto. Non mi può venire a chiedere, è come se lei dice ad una madre di famiglia: devo andare a pranzo, se ti compro un chilo di carne ti fa comodo. Ma bello mio, certo che mi fa comodo. Poi lei mi dice che non c'hai soldi per la carne, e non si preoccupi, faremo con le uova. Però scusi un attimo, ho capito, che vuol dire che faremo con le uova, ministro, scusi? Che se non c'è stata carne mi piace pure l'uovo strapazzato, pure l'occhio del bue, la frittatina magari con gli asparagi, basta che si magna. Ma non è un programma di ricette. Ma che c'entra con l'amnistia, ministro, e con l'indulto, ministro, scusi? Senta, io volevo precisare pure questo. I prodotti devono, sì, essere rigorosamente sigillati. Sigillati alla perfezione. Sono guardasigilli. Ma è un cuoco, certo, un ministro? Ma che roba è? No. Ho sentito, scusi. Non ho capito. No, è un cuoco, lei è un ministro, scusi, perché sembra di fare la prova del cuoco della signora Clerici. Lei è sicuramente molto spiritoso Parenzo. Guardi, lei pensi che nel 2014 dobbiamo andare davanti alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, sì, e raccontare che cosa abbiamo fatto, e sai che gli dico? Sai che gli dico? Che dice? Una cacio e pepe abbiamo fatto. Una cacio e pepe. Però, ministro, adesso lei continua a scherzare adesso con questa metafora. L'amnistia e l'indulto cosa c'entrano? Cioè lei dice: se il Parlamento non ci approva l'amnistia e l'indulto, noi comunque facciamo lo stesso con le uova. Quello voleva dire, cioè, in qualche modo faremo. Mi perdoni, Cruciani, pure lei e Parenzo non avete capito niente, perché la conferenza stampa si teneva proprio in un simposio di cucina. E ma non è vero, si parlava di queste cose, quindi vabbè, siete assolutamente fuori strada. Vabbè, ministro, comunque noi non abbiamo capito niente, la ringraziamo lo stesso. Buona arrivederci, buona serata e buona cena. Buona serata e buona cena soprattutto. Noi non abbiamo capito. Lei, ma lei, ma scusi, ma lei mangia? Ma lei mangia? Lei mangia Carfagna o Cancellieri? No, ma Carfagna, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Scusate, ma lei mangia la sera oppure? Sì, qualche volta sì. Qualche volta no. Quando ho un cliente, no. Non quando ha un cliente, no. No. Ma in tutto, vuoi mangiare qualcosa con me? No, ma stasera no. No, ma stasera, ma insiste ancora. Insiste ancora. Te le lecco. Ti ricordi? Ma no, ma dai, ma basta. Secondo me qua finisce male. Ma no, dai, su. Ma talmente io non ho capito una cosa, però. Molto bello, spiritoso. Tutti ascoltano lui. Cioè, io vorrei sempre un uomo come te, potente, bello, intelligente. Ma potente non lo sai, non è che... però scusami, abbiamo fatto una foto. Ma sì, vabbè, abbiamo fatto una foto così per ridere. Potete vedere su Twitter tra un po'? No, per carità. Sì. No, scusi, signora Efe, ma io voglio capire. Già dicono. Ma lei in base a che cosa vuole pagare le tasse? Scusi, in base a che... Parliamo delle cose serie. Ci sono 50.000 persone che 50.000 persone che lavorano come me, donne, uomini, trans, quelli che sia. Sì. All'inizio possiamo fare una carta ricaricabile, come una... Ma come una carta ricaricabile? Carta ricaricabile. Tu vai in banco, ma dici io voglio lavorare, è una carta ricaricabile, tu lo ricarichi e quella ti permette di lavorare pagando quel cifra lì, 1.000, 2.000, quelle che sia, e tu facendo vedere questa carta ricaricabile quando c'è un controllo dice che hai già pagato le tue tasse. Tanto per cominciare, tutti leggi che ci sono adesso in Italia, anche nel mondo, sono cambiati con il tempo. Ma scusi, tanto ma il centrodestra ha voluto punire i clienti, lei lo sa, no? Con le leggi. Sì, lo so, ma alla fine hanno avuto un grande problema. Sa perché? Per me, io credo molto in Dio, nonostante che faccio prostituta o sono una trans, ma io credo molto in Dio. Succedere. Adesso non per criticare per il signor Berlusconi, ma lui ha fatto con il signor Moratti, hanno dato talmente tante multe di 450 euro ai trans, ai clienti, a tutti. E poi dice, tutti. È tornata indietro questa cosa. Ecco, il Dio c'è, esiste. Perché? Ma esiste. Perché? Tutte quelle malpreghiere di tutti quei clienti trans che alla fine sono stati rovinati veramente. Tutti hanno pregato e lui purtroppo, che per una cosa che ha fatto non ha fatto, o che anche che ha fatto saranno cavoli suoi, è colpito lui. Il padulone è tornato. Esatto. Io penso veramente così. Infatti, sai che non è stupida questa signora Balla, Parenzo? Non bisogna colpire. No. Non bisogna sempre dare le multe, colpire, di fare... Bisogna cercare la soluzione. La prostituzione è esistita da sempre, ci sarà per sempre. Non sono assolutamente d'accordo di aprire casa chiusa, no, perché secondo me, secondo me saranno le case dei mafiosi, visto che mafia c'è ancora in politica, in ovunque parte. E noi come trans e come tanti altri che lavorano come me, a quei bordelli che apriranno davanti lavoreremo davanti e facciamo così: amore, non vai lì, io faccio di meno, vieni con me. È così un cavolo che lavorano quelli che lavorano comunque in quei bordelli. Prima o poi farò una trasmissione con la signora Balla, che mi ha raccontato prima delle cose pazzesche sul modo in cui si rapporta ai clienti. Grazie Efe, a te. Ma Balla, dopo ci vediamo? No, assolutamente no. Efe, no, ma non mi va, non, ma non puoi. Io ci ma ti no, faccio ma vedere non, le tette. Ma no, mandate la musica, mandate la musica. Salvatore da Matera, buonasera. Dica. A me spiace, ma lei ha dimostrato che la spettacolarizzazione delle persone che sono transessuali... Ma mi ha raccontato delle cose pazzesche, eh. Poco prima di venire qui è stato con un cliente, mi ha raccontato i dettagli, una cosa spaventosa, gli ho detto, io fossi in te smetterei domani mattina. Ma sta dimostrando che sono una cosa a parte, che non sono assolutamente integrati all'interno della società, appunto. In che senso, scusi? Nel senso che non sono persone con cui... sono persone che fanno le prostitute, che fanno non sono persone normali. Ma che vuol dire? Vuol dire che non sono persone normali. Allora, ha dimostrato quello che lei invece sta cercando di portare avanti al contrario. Ma non ho capito niente, lo sa Salvatore che non ho capito nulla? Lo so che lei non capisce quando non vuole capire. E mi vuole mettere in difficoltà perché... Ma io non voglio mettere in difficoltà, semplicemente non ho capito nulla di quello che lei ha detto, nulla di nulla. Che lei sta praticamente spettacolarizzando anche una condizione umana, che è quella dell'omosessualità e di quant'altri, e sta dimostrando che sono soltanto delle persone che fanno le prostitute, sono delle persone che sono assolutamente ai margini della società, appunto. Ma non mi pare ai margini della società, la signora Efe Balla. E le persone normali che invece vivono questo stato anche con molta dignità, allora che fine fanno secondo lei? Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Vabbè, Parenzo non si sente più perché come al solito si è trasferito. Beh, Parenzo è meglio che lo togli davanti. Parenzo, dimmi. No, mi pare che la signora Efe Balla sia molto dentro la società invece, non fuori, anche infatti il contrario. Infatti fa la prostituta, e questa è la dimostrazione che volete dare del fatto che possono essere che dobbiamo parlare dell'integrazione della società. Vabbè, non ho capito niente. Raimondo da Napoli, stia zitto. Vabbè, Salvatore, non ho capito no. nulla. Raimondo da Napoli, si faccia le sue lucubrazioni mentali da un'altra parte. Raimondo da Napoli. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Volevo dire praticamente che la signora Febal potrebbe farsi difendere dall'avvocato Taormina. Dove non sappiamo se lui ha clienti omosessuali, ieri non ci ha fatto capire. Non ho capito, scusi. Ieri l'avvocato Taormina non ci ha spiegato se ha anche clienti omosessuali. Ma non lo so, ma lui i clienti basta che pagano, figuriamoci se l'avvocato Taormina si fa problemi. Allora, lui praticamente i suoi assistiti possono essere omosessuali o no, non si sa. Però sappiamo che lui gli omosessuali comunque non se li prende a lavorare. Questa è una cosa che... questo volevo dire. Vabbè, Mario da Reggio Calabria, non ho capito quello che lei voleva dire, ma va bene lo stesso. Buonasera, io sono incazzato, sto sprigionando fiamme e saette dal culo e dalla bocca. Perché? Perché? Te spiego subito perché. Dimmi. Perché io stamattina ho letto un articolo che diceva che la Tieng vorrebbe garantire la pensione pagata appunto dalla nostra INPS a tutti quegli immigrati che una volta erano in Italia poi se ne tornano nel loro paese. Sì, ma è una cosa complessa questa roba qua. Ma guarda, ma se non abbiamo la pensione noi giovani, io ho 43 anni. Ma dipende, se uno ha lavorato in Italia, non è che vuole dare la pensione agli clandestini, cioè se uno ha lavorato in Italia. No, io non ho detto clandestini, ho detto immigrati. Allora? Non ho detto clandestini. Ho detto che lo Stato italiano dovrebbe prima badare i suoi figli, ovvero. Ma che vuol dire? Ma se uno ha lavorato in Italia e ha diritto alla pensione, credo che fosse questo lo spirito della considerazione della Chiesa. Esatto. Cioè, se la può portare, se se ne va dall'Italia se la dovrebbe portare via, questo voleva. Sono soldi dei lavoratori quelle. Ho capito, ma non mi interessa, prima dobbiamo pensare noi, dobbiamo concentrarci su di noi. Io chiamo da Reggio Calabria, che noi vogliamo fare tutti quelli che immigrati poverini qua, poverini là. Circa 4 giorni fa sono venuti degli immigrati che stavano affogando, sì. Li abbiamo ospitati noi. Dopo 4 giorni questi neri qua se ne sono andati proprio. Ci sono fottuti tipo le ma questo che vuol dire? Scusi, cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo finirla con il buonismo, dobbiamo finirla con diciamo l'accoglienza, ma lo Stato italiano deve badare a noi italiani. È inutile che io vedo sempre che mi incazzo, vedo tipo Balotelli con il tricolore, quella fiscetta là di Meng, là con la casa si chiama Miss Italia. No! Ma che vuol dire no? Ma lei è pazzo? Ma quello è italiano, Balotelli, è italiano? Ma quello è italiano, è uno della tribù dei Mao Mao, non è italiano. Vabbè, Parenzo, rispondi tu per favore a questo qua. Chi è? Mario, chi è? Mario, no, Mario da Reggio Calabria. Ma lei è un criminale. Cioè, lei è un... Mario da Reggio Calabria. Ma lei è un criminale, quello della tribù dei Mao Mao. Ma lei è un razzista criminale, Mario. Lei è un razzista. Ma come fai a vedere uno nero con la bandiera italiana? Non si può. Ma che vuol dire non si può? Quello è nato in Italia, ma lei... Ma è stato adottato, pure, ma... è stato adottato, non è nato, ma... è stato adottato. Vabbè, sì. Dalla tribù dei piedi scalzi. Dalla tribù dei piedi scalzi, ma anche venisse dalla tribù dei piedi scalzi, non ho capito, perché quello della tribù dei piedi scalzi secondo lei deve restare nella tribù dei piedi scalzi? No, però dico, prima lo Stato italiano a noi italiani, i nostri figli, oggi noi, che forse di Polinz non riuscirà a pagare le nostre pensioni, perché fallirà. Vabbè, ma comunque lei è malato, cioè è evidente ma che no, è malato. Lei dovrebbe fare una cura. Sì, lei è malato. Sì. Voglio sottolineare. Dica. Parenzo, rispondi, dai, su, pronto. Dai, vabbè. Allora, Luigi da Imperia, senti, se dobbiamo fare la trasmissione devi stare tranquillo, in un posto tranquillo, non puoi stare in mezzo al traffico a caso, eh. Luigi da Imperia, su, dai, forza. Lo ero in un posto tranquillo. Dai, su, dai. Buonasera. Luigi da Imperia, dai. Buonasera, scusate se parlo, faccio un'affermazione molto più drammatica e drastica. La maggior parte del la stragrande maggioranza del popolo italiano, siccome va a votare, è ancora illuso che siamo una democrazia. No, invece dove siamo? Se gli posso citare anche chi l'ha detto, chi non l'ha detto. No, ma dove siamo invece? Mi spieghi dove siamo, lei che sa tutto. Lei ha mai sentito parlare di un certo Tocqueville? Tocqueville, un francese. Lei a Parenzo l'avete sentito mai? Sì, Alexis de Tocqueville, sì, certo. Allora lui ha definito la degenerazione della democrazia in dittatura della maggioranza. E quella è quella che c'è oggi. Tanto è vero che no, è inamovibile da anni e anni che andiamo a votare, e se ci fate caso è così sicura di sé che addirittura, cioè, proprio nella vostra radio le sento queste cose. Mentre per esempio il fascismo nei primi anni soprattutto temeva, chi avrebbe mai detto a Mussolini che ingiuri eccetera eccetera, adesso vedete che addirittura ingiurano il capo dello Stato, non si applicano neanche il vilipendio, non si applica, cioè il regime è così forte, sicuro di sé, che non ha neanche bisogno di mandare gente al confino. Sì, ma quale sarebbe il regime che c'è? Scusi, non ho capito bene. Quale sarebbe il regime che c'è? Quello che Tocqueville chiama la dittatura della maggioranza. La dittatura della maggioranza. Vedere, libro, eh? Ah, che fatica. Salvatore da Napoli, Salvatore da Napoli. Ci sono. Buonasera. Dica. Buonasera. Subito. Praticamente insomma io mi scandalizzavo che il Cucchiani di Intesa prendeva 11.700 euro al giorno. Sì. Mi scandalizzo di più se prende l'amico Fazio 15.000 euro al giorno. Cioè praticamente dovremmo parlare di persone con 15.000 euro al giorno, sono, in tre giorni sono 45.000 euro. Praticamente insomma potremmo dare la pensione, quella sociale, a 100 persone tranquillamente. Questo le volevo dire, ma se vuole... Ma ho capito, ma non si può fare questo paragone qua con i soldi di Fazio, potremmo pagare le pensioni, dai! Del discorso, no, parliamo di quello che è il discorso privato e possono fare quello che cazzo vogliono. Poi parliamo del discorso pubblico e fanno sempre che cazzo vogliono. Vogliamo un attimino vedere se questi possono spendere 15.000 euro al giorno. Poi potremmo parlare di Intesa, possiamo parlare di Micheli, possiamo parlare di tutta una serie di persone. Vediamo quando prendono, che cosa fanno e che cosa ingannano. Vabbè, Giampaolo da Venezia, chiudiamo con Giampaolo, su, dai, Giampaolo. Salve Cruciali, sì. Vada. Io volevo parlare un attimo con Parenzo. È qua Parenzo, è qua, se c'è allora, ancora. Parenzo, allora, volevo chiedere 5 euro a Parenzo, domani mattina vado all'Eroa Merlin, prendo una bomboletta nera e pitturiamo di nero Pritiche, lo buttiamo nelle cose di Lampedusa e così lo Stato gli fa un salto funerale normale come tutti gli altri profughi, no? Cioè lei dice dipingiamo di nero Pritiche, lo mettiamo in una finta barca? No, lo buttiamo proprio così a pezzi anche. Cioè lei dice fosse un immigrato avrebbe già avuto un funerale eccetera. Paragone dallo Stato italiano. Bella provocazione, ma il paragone non regge. Ci sentiamo domani 18:30. Ciao. Vieni qua che ti resucchio. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Tazza di merda. Radio 24. La passione si sente. Vieni qua che ti resucchio.